la luce in fondo al tunnel, quasi sempre un treno che viaggia in direzione opposta. Annientinari cerebrali dei desideri irrealizzabili, gli unici di cui ho pagato sempre il conto salato di crederci, ma non mi pento ancora, nonostante tutto. Questo dolore che ritorna ad addentarmi, l'avevo scordato, annullato con la forza di chi si arrampica oltre l'orlo di una sconfitta che soffoca come un laccio alla gola. In questo inverno di febbre e delirio, salve certezze che volano via. Se vuoi raggiungere il possibile, quelli...